Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Radio La Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica. Il top assoluto di queste ore non è l'incontro Renzi-Merkel, caro Parenzo. No? No, no, no, no, no. Sono quelle voci, quelle immagini che vengono dalla Crimea, dove si è esibito dopo il referendum a favore dell'indipendenza della Crimea, a favore della Russia, niente poco di meno che Riccardo Fogli. Un giorno che passo mai con questo amore. Era in tour in Russia dall'inizio di marzo, dice che gli hanno pagato un aereo privato, una specie di jet privato. Russi sono questi. È andato a Sebastopoli, là dove diavolo è la Crimea. Si è esibito inneggiando al referendum, anche se poi non è che ci capisse granché, come lui stesso ha ammesso. Tutto finito, tutto finito. Ma Fogli, questione che canta piccola. Ma questa è una canzone dei Pooh, ma sei ignorante come. Ma non è lui, sì. Poi, ovviamente, Riccardo Fogli era uno dei Pooh, no? Sì, ma ha cantato piccola Katie. Sì, sì, come no? Ah, ecco, no, perché io l'avevo visto dai Twitter, infatti. Davanti alla folla. Sì, a folla, ma adesso però. Si potrà dire le cose della trasmissione. È una barzelletta. Io l'ho introdotto perché è una barzelletta. Come una barzelletta, non il referendum, è una cosa serissima. Anzi, sul referendum devo dire che Cacciari, per esempio, Massimo Cacciari, cosa dice? So che alla gente, al popolo della Zanzara, della radio, della questione della Crimea non fotte nulla. E questo ne sono consapevole. E va benissimo. Infatti dico solo una cosa: quelli che dicono è una vergogna come l'Unione Europea, sentite Cacciari. Perché il referendum in Crimea deve essere truccato? Sono chi l'ha d'accordo. Detto? Chi l'ha detto? Obama? Ma scherziamo, non è stato truccato per niente. Chi conosce lì la situazione sa che il 95% è per la Russia. Che discorso è? E col Kosovo? Non è stato uguale? Ma con che faccia vanno a dire che è illegale il referendum in Crimea dopo che hanno... E in Kosovo era invece legittimo? Ma no. Che figure facciamo? Ma che discorso è? Com'è che fa Cacciari? Ma che discorso è quel signore che si chiama Obama? Obama! E l'America, il potere americano! È chiaro che quel 90% di russi però lì, quel 90% è un po' di ucraini a favore della Russia. È evidente anche a quel coglione di Cruciani che quel referendum... Scusi Cacciari, ma che c'entro io? Perché comunque un coglione per definizione, ma al di là di questo, anche Obama, ma come si permette? Ma chi è Obama? Obama! L'altra barzelletta è la candidatura. Tu ti immagini quando Obama gli hanno detto: guarda, c'è Mr. Obama, there is a professor Cacciari. Cacciari. But says. Dai, said, ma come si permette Obama? Com'è che fa? Però come? Scusa, 90%. No, ma non me ne frega niente, aspetta. Non me ne frega niente perché? Ma l'altra che buffonata, l'altra buffonata è quella della candidatura di Berlusconi in Europa. Questa è veramente una pagliacciata, dai, diciamo questo la verità. Ragazzi, qui c'è la legge Severino, la questione dell'interdizione dei pubblici uffici. Cioè, e uno si deve candidare in Europa, ma è evidente, per carità, va bene tutto, la politica, la propaganda, il popolo, ma gli se elettori. Si candida, cioè lui si può tecnicamente mettere, sì, vabbè, in lista, non la mettere subito su questo, no, ma è interessante, piano, però. Ma può darsi di sì, poi deve però essere... poi si invalida tutto appena viene eletto. Questo intanto è punto. Sentiamo lo stesso Berlusconi, sì. Presidente, noi ti vorremmo anche capolista alle europee, per la verità. Io guarda, sono in campo per avere una sospensione delle pene che mi hanno giustamente inflitto e spero di avere una risposta dalla Corte Europea. E se questo si avvererà, io come tutte le altre volte sarò felicissimo di essere in campo in tutte le 5 circoscrizioni. Capito? Vabbè, non avverrà, No, appunto. Se dovesse avvenire, sarebbe un Berlusconi che va di rottura, diciamo, no? Perché poi dovrebbe intervenire il TAR, forse una sospensiva, si potrebbe arrivare addirittura all'invalidazione poi dei voti. Appunto. È una buffonata, dai, su, uno non si deve candidare. Purtroppo gli è capitato questo, uno viene condannato dopo una battaglia durata 20 anni e beh, non si candida, punto e basta, dai. Totti, portavoce di Forza Italia, che è portavoce, come si chiama? Portavoce? Sì, portavoce. Portavoce, sì. Tutti hanno messo le mani avanti, la paura di Berlusconi. Cambiano strada, se li saluti. Hanno messo tutti le mani avanti per dire non può candidarsi, non deve candidarsi, è vietato, per l'amor del cielo. Questo denota una certa paura, cioè vuol dire che il disegno di mettere fuori campo Silvio Berlusconi per via giudiziaria non elettorale era un disegno. Sulla mura dove scriverci un rigo, una donna che non c'è più. Oh, poi c'è Don Mazzi che dice a Klaus Davi che perdonerebbe un assassino, ma non un magistrato che usa il potere per il suo interesse. Vabbè, riferendosi evidentemente a qualche magistrato che ha perseguitato Berlusconi. Domani non ve lo faccio ascoltare perché è una roba tremenda da ascoltare, un audio terrificante. Invece c'è Grillo contro l'Expo. Adesso questa roba dell'Expo, non sapevo neanche cosa dire, sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo, cosa guardo, c'è niente, c'è un campo, 4 pezzi di cemento, guardi, qui ci verranno 2 milioni di persone, ma chi è che viene a Rho? Ditemi, ho chiesto a Milano, sei mai andato a Rho? Mai, mi toglierei i coglioni per andare a Roma. Ma è di una, ma guarda che è di una stupidità irritante. Non ha tutti i torti. Ma come ha tutti i torti? A chi cazzo ma ci perché va, secondo dai, te su. Quando costruirono dai, Euro su. Disney ad esempio fuori Parigi qualcuno conosceva quelle banlieue, qualcuno conosceva quei territori perduti della Repubblica. Ma come si è fa? Un cretino, bisogna cominciare a dire che quello è un cretino, come? Dirlo proprio, urlarlo ogni all'inizio di ogni puntata 18:41 Grillo 2 punti è un cretino. Ma come è un si cretino fa a fare patentato. L'ex sono a andato Rho, lì dai, non c'era nessuno, uno con il casco l'ex, ma non serve a niente la mozzarella, ma i cinesi devono stare in Cina, no? Ma come ci va? Arriva lui, zitto siamo qui 800 24 00 24, primo ospite della serata, vediamo il circo che siamo. Don Paolo Farinella, eccoci. Buonasera. Qui come buonasera. Andiamo Don Paolo, parroco a Genova. Parroco, anche qui parroco. Scrittore su Micromega, sì, grande. Parroco. Che c'è? Perché non è parroco? Che cosa gli vuoi dire? Sì, sono parroco. Ma che parroco. Fino a prova contraria è parroco, lo vuoi cacciare? Storico. Lo vuoi cacciare dalla chiesa, Parenzo? È una tricotese, ma quale parroco? Che vuol dire tricotese? Che vuol dire spiega? Erano quelli che chi è che parla? Parenzo, che vuole fare? Devo è sopportare anche questo. È una tricotese. C'è uno che taglia la testa, che cos'è? No, erano quelle donne che durante la Rivoluzione Francese stavano a far la maglia mentre veniva eseguita la ghigliottina. Lui è uno di quelle della tricotese. Ah, beh, non lo sapevo. Scusi Farinella, ma lei cosa farebbe? Perché ad aprile bisognerà decidere Berlusconi ai servizi sociali oppure ai domiciliari. Fosse per lei? Ma se fosse per me, io gli darei, come dire, farei una legge morale ad personam, valida per una sola volta, cioè l'eutanasia attiva. Addirittura, cioè? No. Per forza, ma bisogna, quello lì deve togliersi di mezzo, ormai non può votare. Sì. lui non può andare a votare, sì, perché verrebbe accompagnato fuori. Fuori dal seggio, sì. Adesso sembra che non possa andare a votare, sembra. Questo coso qui è per rubare un po' di scena all'altro all'uovo che ha fatto lui, sì, il Renzino. Il Renzino. E quindi è in funzione di una politica interna, cioè interna al suo partito. Però scusi un attimo, Farinella, si stanno spartendo le spoglie. Scusi, capito? Che vuol dire legge ad persona? Deve fare queste cose qui per far parlare un po' di sé, perché è un narcisista patologico. Scusi, don Farinella, che significa legge ad persona, eutanasia attiva? Cioè lei... è una forma paradossale. Andrebbe soppresso. Che si tolga dalle palle e non se ne parli più, perché ormai non ne possiamo più, dopo 20 anni, sì, di disfacelo totale sotto tutti i punti di vista. Andrebbe soppresso, dice lei. Si vuole presentare ancora come... Ma è una sceneggiata. Questa è una sceneggiata, nemmeno napoletana, perché quella napoletana fa ridere, ma questa qui è proprio un piagnisteo, proprio da patologica. Cioè, non ho capito, se morisse domani lei sarebbe... Una forma di vittimismo, così, da strapazzo anche. Scusi un attimo, ma se morisse domani lei sarebbe contento, non mi dica questo. Diciamo che l'Italia avrebbe, come dire, un periodo di pace. Un po' tranquillo. Dunque lei sarebbe contenti se domani non Berlusconi... Non dovremmo più occuparci di queste belinate qui, mentre l'Italia va ramenco, insomma. Scusi, se il domani... Il problema non è Berlusconi, no, ma il ho problema capito. È la situazione delle persone che muoiono di fame. Vabbè, in questo momento. Don Paolo, cioè se domani morisse, lei, come dire, accenderebbe un cero? Beh, io dico, signore, ti ringrazio, non ne parliamo più, punto e come basta. Ti ringrazio? Grazie, signore, direbbe come lei. Ti ringrazio? Grazie, signore, che te lo sei portato via, diciamo, no? A peste, fame, ti bello e ti Berlusconi, liberano il domine, insomma. Com'è la storia? Com'è la cosa, scusi, in latino? La preghiera che si faceva nelle 40 ore, no? Sì, nelle 40 ore, in epoche pretridentine. Sì. A peste, fame e ti bello, guerra... io aggiungo, Ette Berlusconi, liberano sdomine. Liberaci da Berlusconi. Liberaci, capito Parenzo? Prete, no, signor prete, lo chiami poi signor il prete, prete. Don Farinella, l'électricoteuse, non è... Cioè, voglio dire, un uomo di chiesa dovrebbe, come dire, no? Non augurarsi la morte allora, di nessuno. Allora perché non dici che deve andare fuori? Ma qui siamo in campo politico, sto parlando in campo politico. Ma usa campo... la formula latina per il campo politico, la formula delle prece. Un attimo solo, fermi tutti, traffico. La zanzara stronza. Attento al DDT, sai? Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Don Farinella, ha sentito Don Mazzi che dice? Dice che sì, ho sentito, lui ho sentito. Perdonerebbe un assassino, ma non un magistrato che usa il potere per il suo interesse. Contro sì, per... sì, Don Mazzi ha passato la prima parte della sua vita nei salotti della televisione e la seconda parte della sua vita, dove dovrebbe recuperare un po' di saggezza, perché la vecchiaia porta saggezza, in questo modo dimostra di essere totalmente rincoglionito. Addirittura, e dovrebbe fare farsi un'overdose di acqua benedetta ed eventualmente prendersi una tisana con le spine dei carciofi bolliti. Non ho capito, la tisana, più che un prete, la tisana mi sembra con le spine dei carciofi bolliti è una pozione magica di quelle... Ma sì, ma perché non può dire quelle stupidaggini lì? Insomma, non è serio dire a arrivare ad una battuta del genere, che non è nemmeno una battuta. Ma scusi, Don Mazzi... Avesse detto mi fa pena una persona, così ancora può passare, anche se... uno come Berlusconi non può far pena. Però scusi, Don Mazzi era anche quello che ha detto che voleva Berlusconi per pulire i cessi nella sua comunità. Sì, ma era una battuta così di en passant, ma infatti lo vorrebbe mettere per fare i circoli con i suoi ragazzi, no? Cioè? E figuriamoci se presenta Berlusconi come modello. Perché una no? Battaglia tra preti questa è. Come? No, è una guerra tra preti, dico ma lo proprio. Sai che ma figuriamoci. No, me ne scampino, è assolutamente se ne fottene una battaglia fra preti. Dico semplicemente che un minimo di buon senso sì. non porta a dire un'affermazione così, a mettere in contrapposizione i giudici con Berlusconi. Berlusconi è un perseguitato. Ma ragazzi, si è fatto 40 leggi su misura. Scusi un attimo, ma è vero che la vogliono candidare per la lista Tsipras, quella di sinistra? Ma mi hanno proposto e io ho detto di no, perché il mio compito non è quello di... Meno male. Di fare il politico, di andare... Perché no? Anche perché ho sempre pensato che una rondine non ha mai fatto primavera. Budget bozzo l'ha fatto. E ci tengo a fare politico. Il mio lavoro, che è un lavoro, come dire, molto più utile, a me comunque, molto più utile. Comunque, Don Paolo, qui vogliono riproporre la questione della grazia. La Santanchè vuole riproporre la questione della grazia a Berlusconi, forse... No, assolutamente, non è possibile nemmeno per legge. Perché prima di tutto lui deve riconoscere, accettare la pena. E lui non l'accetta. Sì, e vabbè. Perché se l'accettasse cadrebbe questa maschera di 3,5 kg, di 10 kg che ha. Addirittura. Di maschera che si mette davanti. E non sarebbe più Berlusconi, no? Però Lila Santanchè la ripropone al Presidente della Repubblica, addirittura questi stanno facendo, anche perché la Santanchè, se non faceva questa proposta... Che faceva? Santanchè chi? Ah, non se la filava più nessuno, dice lei. Infatti, questa gente qui deve trovare un escamotage qualsiasi per poter essere sulla prima pagina del giornale. Ma perché, secondo lei, alla fine gli negano a Berlusconi pure il permesso di andare a Dublino, di andare all'estero senza passare? Ma perché questa è l'applicazione della legge, no? Ma di che hanno paura? Non è che scappa Berlusconi. Se la legge è uguale per tutti, se la legge è, anzi, dovrebbe... Ho capito, ma non è che scappa Berlusca, su, Don Paolo. Beh, non importa, però è un esempio, significherebbe che un potente può fare quello che vuole. No, lui gli è stato, ancora tra l'altro deve essere definito, il 10 di aprile devono definire. Ma scusi, lei prega tutte le notti? È ancora subiudice in un certo senso, scusi, no? si è appellato alla Corte Costituzionale, si è appellato all'Europa, alla Corte di Giustizia Europea, e quindi adesso accetti le conseguenze di tutto questo, no? Parenzo, che dici? La volevo chiedere al signor Prete, se a casa a signor Prete, con Dudu. Che ha detto se ne sia a casa a trastullarsi con Dudu, vabbè. Volevo capire dal signor Prete se il signor Farinella ogni sera quando si corica rivolge il pensiero a che appunto il signore se lo porti via presto, cioè ogni sera lei prega. Ma perché... lei lasci stare i miei pensieri, perché quelli sono miei. Lei non, se non è un indovino, non li può. Sono pensieri impuri, battuta, impuri, Don Farinella. Io non ho nessuna avversione nei confronti di nessuno, dico che a livello politico sono stufo. No, però Don Paolo, lei... Sono stufo di questo, diciamo la verità, ogni sera... malefica. Presenza malefica, presenza, vabbè. Malefica. Come per malefica? L'Italia. Però, diciamo la verità, lei ogni sera, prima di andare a letto, fa una piccola preghierina. Una piccola preghierina. No, non c'è bisogno, basta pregare una sola volta. Già, che vale per tutta l'eternità. Cioè, già l'ha fatta la preghiera, allora lei. La preghiera perché nostro Signore ci liberi da Berlusconi. Perché l'Italia sia liberata da questa presenza. Ma non lo ascolta, che è un peso. Ma un non peso l'ascolta. Mi pare che il nostro Signore mica l'ascolta. Comunque non saremo mai liberati da questa presenza, perché lui ha fatto l'uovo. Ha fatto... E l'uovo si chiama Renzi. Ah, e Renzi è il suo quello. Vabbè, che prosegue. Non esageri. Adesso non esageriamo, dai. L'uovo addirittura. Starete a vedere, vedrà che un giorno mi chiamerà di nuovo e mi dirà aveva ragione. Dopo le toghe rosse, tonaca rossa c'è. No. Lascia perdere. Tonaca rossa. Il rosso ormai si è perso. È diventato fucsia, non esiste più il rosso. Lo sa, caro... l'unico che ragiona come un comunista, l'unico è rimasto Berlusconi. Ma lo sa, Don Paolo, che noi stiamo facendo una grande battaglia per la legalizzazione della prostituzione, lei è d'accordo? Direi di sì, che forse a questo punto una al punto in cui ci troviamo anche per una tutela della salute pubblica, anche di queste persone. Certo. Sarebbe il caso, no? sarebbe il caso di regolamentarlo come è nella maggior parte. Ma lei quando era giovane non è mai andato a prostitute? No. Vabbè. No. Sicuro? No, sicuro, guardi, io lo garantisco. Va bene, a presto, Don Paolo, arrivederci. Arrivederci. A peste, fame, et bello, guerra, e io aggiungo et Berlusconi, libera nos domine. Liberaci, signore, sì. Liberaci, signore, sì. Beh, bisogna dire una cosa, caro Parenzo, e poi non ne parlo più, Cioè, c'è qualcuno che si aspettava una risposta diversa da parte della signora Merkel? Tutte cose scontate, tutte cose super scontate, no? Impressionata da Renzi, auguro il successo per le sue riforme. Dai, su, tutto scontato. Facciamo sentire un po' di cose divertenti. Per esempio il pentimento di Servillo, che dopo aver mandato a fare in culo la giornalista di La News 24, chiede scusa. Ti ricordi la famosa... Non aveva capito che... No, ma è credibile, non mi era accorto di non aver spento il cellulare. Cioè, Servillo, vincitore dell'Oscar, chiede scusa alla giornalista di La News 24. Io posso semplicemente dire che non c'è niente di personale, che è un incidente che non avrei voluto che accadesse. Mi scuso personalmente con la signora. Credevo di avere spento il cellulare e basta, penso che sia una cosa su cui possiamo stendere archiviamo. Un velo. Ecco. Va bene, archiviamo. Beh, diciamo con qualche settimana di ritardo, ci poteva pensare prima pure, è arrivato, era dappertutto, su tutti i siti, eccetera. Comunque. Poteva chiedere scusa già la notte degli Oscar, ad esempio. Vabbè, non esageriamo adesso. Un piccolo episodio, comunque ci poteva pensare prima. L'attacco di Vladimir Luxuria a Alessandra Mussolini. Dice che questa vicenda poi alla fine la cavalcherà come Hillary Clinton, la vicenda del marito. Pare che i due tra l'altro siano stati visti. Ci sono pure delle foto a messa domenica, dunque le voci che parlavano di una rottura sono state smentite. Vladimir Luxuria ci va giù pesante. E tanto lei questa cosa la supererà, perché lei ha una grinta, ma sì, la supera, anzi cavalcherà questa cosa un po' come Hillary Clinton, facendo la vittima, la donna, ma sì, il marito sporcaccione, la donna vittima, e farà come Hillary Clinton, anzi avrà anche più consenso da un punto di... vedrai. Lei andrà in televisione, farà una bella trasmissione in cui parlerà di questo e tutti si medesimeranno in questa povera donna. Chi sputa in cielo in faccia gli arriva. Cioè la tesi Luxuria è questa: siccome Alessandra Mussolini ha insultato, dileggiato, preso in giro, usato parole volgari nei confronti degli omosessuali, delle coppie gay, dell'adozione eccetera, adesso ben gli sta. Chi sputa in cielo in faccia gli arriva. Ognuno deve prendere le occasioni che ti capitano nella vita per riflettere, perché lei spesso, dicendo quello che ha detto, meglio fascista che frocio e tutte quelle cose che ha detto, io credo che qualche sofferenza in qualcuno l'ha procurata. Io ho detto chi sputa in faccia in cielo gli arriva, io non la vedo come una vendetta. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Per la Merkel le riforme di Renzi segnano un cambiamento strutturale. L'Italia rispetterà il patto di stabilità. Renzi, puntiamo in alto e rispetteremo i parametri UE. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble promuove gli obiettivi del governo. Bene crescita e produttività, ma niente rinvii sul rigore. Gelo della Commissione europea sulla candidatura di Berlusconi, le norme in vigore sono molto chiare, dice la vicepresidente Redi, in Forza Italia è un broglio preventivo. Alta tensione in Crimea, dove il 97% degli elettori ha scelto l'indipendenza da Kiev, il Parlamento chiede l'annessione alla Russia, l'Ucraina mobilita l'esercito, la comunità internazionale non riconosce l'esito del referendum in Crimea, Europa e Stati Uniti varano sanzioni contro personalità russe e ucraine. Resta fitto il mistero dell'aereo scomparso 9 giorni fa, l'intelligence americana non esclude un dirottamento. Protesta degli operai della Tirreno Power di Vado Ligure, chiusa per inquinamento dalla procura, torna il dilemma, diritto al lavoro o alla salute? Storia di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Riccardo Fogli, testimonial dell'indipendenza della Crimea e dell'annessione alla Russia. Ci è toccato sentire anche questo. Anche l'amico Massimo Corsaro di Fratelli d'Italia, a proposito della vicenda delle baby squillo. Ecco, sì, questo è importante da segnalare. È fondamentale, direi. Cosa ha scritto su Twitter? Cosa ha scritto? Te lo ricordi, Parenzo? Una cosa improvvida, diciamo, e anche un po' di cattivo gusto. Ma non esageriamo, su. Leggi il testo, leggi il testo. Leggo. Mi dispiace. Adesso risparmiateci i racconti sofferti delle baby squillo. Mignotte consapevoli e spontanee, giovanissime ma sempre mignotte. Deputato della Repubblica Italiana, Fratelli d'Italia, Massimo Corsaro. Mignotte consapevoli e spontanee, giovanissime ma sempre mignotte. Sì, perché i giornali hanno cominciato a raccontare delle sofferenze, i racconti delle minorenni, appunto, no? Sono usciti i racconti delle ragazze, certo. Sì, degli interrogatori. Interrogate dalla magistratura, sì. È un commento, secondo te, che attiene a un deputato della Repubblica? Questo, invece, magari fare delle leggi, o anziché dare giudizi morali sulle ragazze giovani, sarebbe stato più opportuno, che so, fare delle proposte di legge finalmente sul tema della prostituzione in tutti questi anni, magari, no? Adesso risparmiateci i racconti sofferti delle baby squillo, mignotte consapevoli e spontanee, giovanissime ma sempre mignotte. Devo dire che ci sta tutto, eh. Giorgio da Milano, buonasera. Non c'è Massimiliano Milano? Sì, buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dottor Parenzo. Dica. Senta, no, io ho sentito dire dare del cretino a Grillo da parte del dottor Parenzo. Ha sentito giusto. Mi sembra chiaro che non abbia una particolare simpatia nei confronti di Grillo. Dipende da cosa dice, dipende, non c'è nulla di preconcetto, dipende. No, chiaro, però dipende, io insomma. Vorrei semplicemente fare questa osservazione, perché non so esattamente, io non conosco, diciamo, la carriera nel dettaglio del dottor Parenzo, però se confrontiamo quello che ha combinato il signor Grillo fino adesso, a prescindere dalle osservazioni, dalle cose che dice, da come le ma che c'entra questo? Non ho capito. No, voglio dire, certamente Grillo è una persona di un certo spessore, per quello che è riuscito a fare fino adesso. Allora, più di me è sicuro, va bene, benissimo. Come fa il dottor Parenzo a permettersi di offendere una persona, soprattutto alla luce di quello che ha fatto sino adesso? Io suggerirei quantomeno un minimo di accortezza ma lui lo diceva, nessuna accortezza, nessuna. Lui lo diceva perché è andato a Rho a dire qui non c'è niente, come si fa a fare un expo a Rho, ma anche i milanesi ci vogliono andare. Allora io vorrei capire un attimino dall'alto di quale pulpito il dottor Parenzo. Io valuto quello che dice. A me sembra questa cosa che ha fatto sull'expo è una cretinata. Ma io credo che lei sia un mediocre opinionista. Ma questo va benissimo, ma questo va bene, il suo parere. Lei si trova in un momento, in una particolare situazione, in una trasmissione, anche perché forse ha avuto un po' di, permetta la parola, un po' di paraculo. Ma benissimo. Io credo che al massimo un po' di culo, un po' di paraculo. Ma che c'entra con quello che ha detto? Lei mi deve dire se è d'accordo con quello che ha detto Grillo, poi può contestare parte, quello che dico io. In parte. Quindi lei ritiene che l'Expo sia una stupidaggine. E qual è il motivo? Non ho capito che Parenzo non è legittimato, a giudicare Grillo. Io credo che non sia legittimato. Vabbè, ma questo lei, ma lei è fuori di testa. Lei è fuori di testa, chiunque è legittimato a giudicare chiunque, ha capito? No, ho capito, ma con un certo metodo, con un criterio. Ma il criterio, ognuno ha il suo criterio. In questo caso non di offendere le persone così. Guardi, Massimiliano, in questo caso ha detto che Grillo è un cretino, perché ha detto che Rho i milanesi. Ma no, io lo sento, mi perdoni se la interrompo, dottor Parenzo, io lo sento spesso criticare. Vabbè, anche facendo Massimiliano, abbiamo dato abbastanza. Dario da Milano, buonasera. Sono Dario, sono di Rho. Sì. E mi permetto di contestare l'affermazione del dottor Grillo quando sostiene chi è che verrà a Rho, introducendo un minimo di discredito, o presunto tale, voglio dire, nei confronti della città di Rho. Beh, diciamo che è una normalissima cittadina. Ah sì, dire, certo, normalissima. C'è già la fiera, partecipa ad altri 16 comuni nell'area dell'Expo. Se poi invece stiamo ragionando, vuol sottintendere che la manifestazione potrebbe non avere successo o rispettare le aspettative che ci abbiamo, questo è un altro discorso. Vabbè, ma Grillo fa il comico. Grillo fa il comico. È qui eccolo là, l'errore. Eccoli, in questo caso ha fatto il comico. Ma in questo caso ha fatto il comico, ha attaccato i cantieri dell'Expo, poi si è permesso una battuta su Ro. La facciamo risentire questa cosa su Ro, per favore. Grillo e Ro, ce l'abbiamo? Grillo e Ro. Intanto Ciro da Napoli. Ciro. Ciro, dica. Sì, buonasera, volevo fare un piccolo appunto su quando ha detto il dottor Parenzo riguardo Cacciari e l'affermazione del referendum in Crimea, dicendo che Obama, diciamo, ha detto che è una farsa, eccetera. E ha detto, diciamo, qualcosa che non andava, nel senso che noi ci dimentichiamo che l'ex amministrazione americana diceva anche che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Quindi non è detto che per forza quello che dica Obama sia un qualcosa. No, no, ma assolutamente Cacciari, secondo me, ha ragione al 100%. Vabbè, Grillo su Ro. Sono andato a vedere adesso questa roba dell'Expo, non sapevo neanche cosa dire, sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo, cosa guardo, c'è niente, c'è un campo, quattro pezzi di cemento, guardi, qui ci verranno 2 milioni di persone, ma chi è che viene a Ro? Ditemi! Ho chiesto a Milano, sei mai andato a Roma? Mai, mi toglierei i coglioni per andare a Roma. Sei ancora a casa, Ivo? Le zanzare, fanno male, ma lo fanno, per amore. Nuova puntata, caro Parenzo, della saga Borghezio contro il CNEL. Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, un ente che Renzi ha promesso di cancellare, ma che sarà dura togliere di mezzo. Allora, Mario Borghezio, parlamentare europeo della Lega Nord, chiama il centralino dell'ente e cerca di farsi passare il presidente. Servi di Roma fuori! Senza dubbi neri pensamenti. Pronto? Buonasera, sono Gironi, pronto? Portavoce del Presidente. Chi è? Ah, buonasera. Senta, sono l'eurodeputato Borghezio. Buonasera, io non onorevole. So se ha... Buonasera, ha ascoltato anche lei la conferenza stampa del Presidente Renzi? Sì. E queste notizie, ecco. Io ho una buona conoscenza del CNEL, e perché mi sono sempre interessato degli enti, diciamo sì, così, di Stato, eccetera. Sì. E volevo sapere come avverrà la cosa. Avete già avuto notizia? State già preparando i pacchi? Notizia diretta no, perché c'è, come dire, una certa poca buona creanza nel fare le cose senza neanche avvertire prima. Io non so come non si vergognino questi qui che prendono questi 80 stipendi che non servono assolutamente a niente. Ecco, questo pirla qua di Paperopoli adesso si è deciso in ritardo, doveva essere fatto 50 anni fa, era stata una grande stronzata dei padri costituzionali, questa è la verità. Il CNEL non serve a un cazzo, a un cazzo, a un cazzo. Oh, no. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri. Borghezio era al telefono con Gironi, portavoce del presidente del CNEL. Venerdì scorso interviene una dipendente del CNEL, una tale Simona da Roma. Beh, una tale. Sali Padania. Ha detto una serie di stronzate come quelle che leggete nella lettera. La prima stronzata è stato il fatto che noi come dipendenti assorbiamo l'80% del bilancio del CNEL, ma magari assorbissimo l'80% del bilancio, perché io mi sarei arricchita. Non sono una privilegiata. Muro di onnipotenza. Io dico che lei abbia il coraggio di dire che è privilegiata rispetto ad altri lavoratori. Privilegiata rispetto ad altri. Io non so, non mi sento una privilegiata rispetto al lavoratore privato. Però lo è. Però lo è. Un contratto diverso rispetto al lavoratore privato. Senza dubbi neri pensamenti. E poi intima il licenziamento del portavoce del CNEL. Guerra interna al CNEL. Servi di Roma fuori. Gironi è l'unico che rischia in realtà di perdere il lavoro, perché se chiudono il CNEL. Ma lo dovrebbe avere già perso stamattina. Vabbè, allora fate una prova. Come la penso io di che cos'è il lavoro, la serietà e il rispetto di un'istituzione. Vabbè. Servi di Roma fuori. Giorgio da Milano, buonasera. Ciao carissimi, volevo chiedere una cosa, un parere, perché io sono genovese, no? ultimamente io sento dei genovesi che si sono giocati il cervello, cioè voglio dire, anche me di quelli che si sono fumati il cervello, ovviamente è Grillo, perché dice di quelle cose, cioè vabbè, quella di oggi dirò, vabbè, posso capire che fosse una battuta perché fa simpatico, però cioè a me la cosa che fa incazzare è quando dice certe cose, non solo questa, anche siamo in guerra, cose del genere, è che lui non è scemo, cioè secondo me ci fa, è quello il brutto, sfrutta l'ignoranza di alcuni. E ma anche per che scopo? A che scopo? Ma non lo so, per fare un gran casino, per far parlare di sé, per creare confusione, perché lui politica non ne fa, cioè fa un gran casino, ma poi quello, un altro che quello Don lì, quello di prima, che è anche lui genovese, ahimè, peccato, mi dispiace per la mia città, ma un prete che dice spero che Berlusconi muoia, cioè ma come si fa a dire certe cose? Ora a me non me ne frega niente di Berlusconi, non sono mai stato un suo grande fan, ma non sono neanche uno di quelli che lo odia. Si rivolga alla diocesi di Genova protestando con, che ne so, con il vescovo eccetera, lo dice lui, come si fa? C'è tanta gente che pensa delle cose e non le dice apertamente, c'è metà Italia che probabilmente si augura la morte di Berlusconi e non lo dice, e lui invece ha il coraggio di dirlo, non mi sembra una cosa così scandalosa, Giorgio. Capito, però cioè, ma un prete per di più augurarsi la morte di una persona, ma piuttosto dica che la smetta, cioè che gli succeda qualcosa che gli impedisca di far politica, ma qualsiasi cosa, ma non si può dire che muoia, se io sarei contento, ringrazio Dio se muore, ma come si fa a dire cose del genere? Grazie Giorgio, grazie. Questa roba qui dello stracchino è formidabile. Grillo e lo stracchino. Sì, ma fai un altro, tossisci pure. Se vuoi, rutta, scoreggia. No, ma se vuoi puoi scoreggiare sul microfono, non c'è problema. Ma oltre, ho capito, ma insomma, tieniti. Ma come ho capito? Stavo morendo. Ma fallo lontano dal microfono. Se vuoi scoreggiare, metti di là e scoreggia sul microfono. Non c'è problema. Perché mi era dato per traverso l'acqua. No, ma potrebbe essere morendo. Una grande format radiofonica. Scoreggiare sul microfono. Ma non ho fatto nulla di tutto ciò. Avevo la tosse. Vogliamo fare chi fa il peto più lungo qua. Grande concorso della Zanzara. Chi fa il peto più lungo? Ma venendo tutto qua, perché stavo male alla gola. Adesso, vuoi scorreggiare sul microfono? Ma guarda che sei matto. Grillo forte. E lo stracchino, dai. Grande concorso della Zanzara. Chi scorreggia? Ma che roba è? La scorreggia più lunga. Grillo. Un Expo aperto, fuori. Un Expo che non devi andare a gustare un cazzo di stracchino in un baracchino lì in mezzo a degli svincoli, l'inceneritore. Ma vai nel posto dove fanno lo stracchino, che è qui. E vedi la mucca, vedi chi lo fa! Lo stracchino deve essere gustato non all'Expo. Ma questo c'ha ragione un po', eh. Cioè, portare tutti i prodotti lì all'Expo, dai. Cioè, ma come prodotti? Ma nell'era della globalizzazione? Nell'era della globalizzazione? Comunque, tu devi vedere la mucca. Cioè, vorrebbe dire che... tu adesso, a parte, perché bisogna ragionare sulle fesserie. Com'è la mucca? Dov'è la mucca. Ma ad esempio, a casa mia ho portato una mucca che mia moglie è andata via. C'è una mucca in giardino, cazzo. E vado lì a toccargli le mammelle tutte le volte, esce il latte. Ho obbligato mia moglie a cucinare il formaggio con la mucca. Non si compra più. Sono andati via tutti a casa. Sono rimasto da solo con questa mucca. Cioè, ma scusi, lo stracchino se lo fa da solo lei? Certo, cretino, è evidente, tutto. Ma in ogni casa deve esserci una mucca. Ah, pure in Germania lo fanno, dici? No, in Germania, la Merkel lo fa. La Merkel al Bundestag c'ha solo delle mucche, evidente. Al Bundestag, con la mucca lì a premere, Joschka Fischer, tutti. Schläuble, lui, come si chiama lì quell'altro cretino? A proposito di... che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. A proposito, Grillo dice vinceremo l'Europea e andrò personalmente dalla Merkel. Tu lo immagini un incontro Merkel-Grillo? Questo sarebbe divertente. Senti. Questo sarebbe divertente. Vorrei togliervi qualsiasi dubbio se vinciamo o non vinciamo. Noi, ve l'ha già detto Alessandro prima, noi arriviamo alle elezioni europee, se andate, non andate, espatriate tutti, noi le vinceremo in un modo assoluto. Le vinceremo. E poi andremo dalla Merkel e personalmente la guarderò negli occhi e dirò Zwei den Zifferleine Glasse, bitte Zucker in der Basse, mischele calde Zucker! è ancora un grandissimo comico, dai. Ma sì, è sono un grandissimo. È l'anticipo del suo spettacolo, quello che andrà in scena e per cui gli italiani pagheranno per andarlo a vedere. Se vuoi andare a vederlo. Se vuoi andare a vederlo. Comunque, certo. Sta montando lo Scoreggia Contest alla Zanzara. Cos'è questo? Lo Scoreggia Contest che ho proposto prima, dopo il tuo rutto, il tuo, no, no, la tua tosse in diretta, ho detto facciamo anche lo Scoreggia Contest. Savino, Andria. Ehi, Savino. Oh, amico Savino, caro Savino, dimmi. Sera a voi e tutti i telespettatori della Zanzara. Radio, allora dimmi, dai, però, radio. Tele. Ma comunque, vabbè. Dai, oh, e andiamo, Savino, che devi dire? Non si capisce niente. Allora ti richiamiamo, Paride da Bologna. Paride? Pronto? Sì, dimmi. Buonasera. Niente, io volevo intervenire unicamente sul fatto della vicenda del Baby Squillo. Sì. E reputo che andrebbe rivisto semplicemente il concetto di minorità. Tutto qui. In quanto la minorità, io credo che sia cambiata da 30-40 anni fa. Cioè, secondo lei le persone che sono andate con queste ragazze non sono da condannare? No, no. Io sinceramente non mi sento di condannarlo, di assolvere, non sono un magistrato e né sono il giudice che cantava De André nella sua famosa canzone. Beh, innanzitutto c'è chi le sfruttava e quello ovviamente va condannato. Quello sì, no, vabbè, quello sì, quello da però lei dice perché quelli là devono essere condannati se non erano consapevoli? Beh, questo però è previsto dal codice, il fatto di non essere consapevoli. No, ma quello che voglio dire, Cruciani, è questo. Cioè, le diciottenni di adesso non voglio fare tutte le bonfasce, ma diciottenni adesso, nella maggior parte dei casi, hanno dei comportamenti che sono differenti dai diciottenni di 30 anni fa, di 20 anni fa, di 40 anni fa, nei loro costumi, negli atteggiamenti. Dovrebbe secondo me intervenire il legislatore, o si cambia l'atteggiamento morale, cioè spariscono tutti questi nudi dalla televisione, da internet e quant'altro, oppure si adegua la legge. Questa è una stupidaggine, dai, non è che perché c'è il nudo in televisione che bisogna per forza abbassare l'età. Appunto. Dai. No, io voglio dire che i costumi sono completamente cambiati, non si può non ho capito, se questo, tu vai con una ragazzina, se tu c'hai 50 anni, 55 anni come il marito della Mussolini e altri e vai con una ragazzina, ti di devi accertare anni? Al 100% che questa qua sia fatta dalla carta d'identità, fai quello che te pare, devi accertarti che non è minorenne, altrimenti passi guai. Poi potranno essere sbagliate le leggi, bisognerà abbassare l'età, probabilmente sì, però questo è un fatto. Antonio da Roma. Pronto, Cruciani? Dimmi. Pronto, buonasera. Allora, Parenzo non si smentisce mai, è sempre il solito ipocrita. Cioè? Tratta di mignote, punto. Cioè le ragazzine, sono, dice lei. Sì, sono delle mignote, chiamiamole col loro nome. Nessuno in maniera coercitiva le obbligava, stai qui e portami. No, lo facevano per potersi garantire dei soldi, la borsa di Gucci, gli occhiali di Prada e fare le mignotte di giorno. Quindi, questo sembra se effettivamente non sembra una roba di necessità. Io credo che se parlassero di sua figlia lei non userebbe questo linguaggio, credo, comunque, a prescindere. Al primo maggio, quando è andato al quel concerto idiota di quel coglione che simulava la messa alzando un preservativo e poi ha fatto vedere il culo, Parenzo ci ha portato anche sua figlia minorenne a vedere dice? Questo spettacolo dove, ignobile. Beh, ma che c'entra Antonio, scusi? Dove no, scusi? Si vede che è un ipocrita, perché per quello che vuole lui è lecito, per quello che non vuole lui invece sono cose da tutelare. Ma lei sta delirando? Lei sta delirando. Parliamo di ragazzine di 15 anni. Io non avrei mai usato quel termine rispetto a delle ragazzine che io dico che se fosse se lei parla, lei non parlerà mai così di sua figlia. Lei non parlerebbe mai così di sua figlia. Lei mai parlerebbe così di sua figlia. Perché non fa la mignotta, si pulisca la bocca. Quindi sia anche più gentile, educato rispetto ai drammi che avvengono nelle famiglie. Mignotte. Lei... perché una ragazzina che volontariamente si fa scopare per soldi è una mignotta, punto, altrimenti se ne sta a casa o va a scuola, come fanno la stragrande maggioranza delle ragazzine. Io le faccio solo paese. Notare che se fosse sua figlia lei non userebbe questi termini. Se fosse mia figlia prenderei atto del fatto che ho messo al mondo una mignotta, che anziché accontentarsi di quello che gli posso dare io andare in metropolitana, lui. Invece vuole comprarsi la microcamera star facendo la puttana. È bravo questo, lui. Però Antonio non ha tutti i torti. Antonio non ha tutti i torti. Non è necessario utilizzare questi termini rispetto a delle minori. Rispetto a delle minori. Come sei permaloso, come sei prescissino. Ma che vuol dire? Una a 15 anni, a 16 anni non può essere mignotta, o non può essere, al contrario, se fosse un uomo, non può essere una puttana. Ma che vuol dire? Tanto stiamo parlando di una questione molto delicata, perché riguarda dei ragazzini. Abbiamo riportato la frase. Riguarda dei ragazzini. E infatti io ho criticato anche la frase del deputato Corsaro. Perché se il deputato Corsaro poteva fare due cose: o fare un disegno di legge, una proposta di legge per abbassare la famosa età, se ritiene che i tempi sono cambiati, oppure poteva fare un disegno di legge per la prostituzione, a favore della prostituzione minorile. Va bene, va bene. Ronda, ronda, ronda, se va bene, ronda. Non vi abbandonerò mai. Però, caro Emilio, una minaccia. Sembra una minaccia questa qua. È con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti, buonasera. Molto bene. Buonasera. Eccoci qui. Anche lei definirebbe come ha fatto Corsaro quelle ragazzine di 15-16 anni delle mignotte? Corsaro, Fratelli d'Italia? Quelle del caso Mussolini? Beh, insomma, diciamo che non sono state ben educate. Poi le parole fanno male. Però c'è una vedi, siccome Sallusti ha dei figli, sa che insomma, no? Non è che possiamo dipingere. I suoi, ma non li ha educati così, ovviamente. Ma non è neanche detto che sia colpa dei genitori di queste ragazze. Sì, però quelli che. Parliamo di minori, insomma, stiamo parlando di minori. È sempre colpa dei genitori. Io dare colpi alla società è una cosa che non mi piace. Nel bene e nel male, i nostri figli dipendono da noi, soprattutto nell'età adolescenziale, quindi io come genitore mi sento responsabile di tutte le puttanate che ha fatto mio figlio, non è che le scarico su altri. Sì, però non è che quando Corsaro dice adesso smettiamola con questa lagna delle povere ragazzine eccetera eccetera, queste sono delle mignotte, ovviamente usa una parola molto dura, una frase molto dura, però uno a 15-16 anni è anche un po' cresciuto, non è che sia, cioè, ormai lì, o no? Sì, questo è vero, però a me ha colpito molto un articolo che è uscito sul Fatto di domenica scorsa, non quello di ieri, l'altro, di Beatrice Borromeo, che era un'intervista a un adolescente di 16 anni, che raccontava, come dire, la disinvoltura con cui le sue coetanee approcciavano i ragazzi. Beh, insomma, lì certo, insomma, viene da riflettere. No, ai miei tempi purtroppo non era così, ecco, forse in media, purtroppo? Non lo so. No, come purtroppo, nel senso che non approcciavano, che non la corteggiavano, insomma, in questo modo così. Pronto? Che non la corteggiavano in questo modo così esplicito. Vabbè, abbiamo perso la linea. Dai, Nicola da Roma. Vai, Nicola. Vabbè, Savino da Andria. Abbiamo ripreso Savino. Non pronto? Niente. Sì, vai. Giuseppe? Sì, Savino, dimmi. Niente, stavo sentendo. Vabbè, Andrea da Roma, dai, non si sente niente stasera. Andrea da Roma, dai. Giuseppe. Andrea? Pronto? Sì, ecco, vai, dimmi, dai. No, volevo dire, no, Parenzo che è sempre così, pontifica dall'alto della sua razionalità, ma la differenza fra la parlamentare 5 Stelle che crede alle sirene e Parenzo che invece va in sinagoga, crede al Dio della Torah, al Vecchio Testamento, qual è? Cioè, credono adesso, tra le sirene e la tradizione ebraica c'è qualche piccola differenza, Andrea. Adesso non le voglio dire. Ma per niente. Me può credere alle sirene, hai capito, Andrea, la differenza? Cioè, se questa crede alle sirene e ci fa pure credere che esistano le sirene, ne parla in Parlamento, ne parla nel blog, nella rete, va tutto benissimo. Posso però fare un po' di ironia sulle sirene? Posso? Sulla tradizione millenaria delle sirene? Allora basta. È bello rispettare le credenze altrui. Sì, ma non è tutto credenze. Sullo stesso piano, dai. Non può mettere le sirene e la tradizione ebraica. Che vuol dire, Andrea? Che vuol dire? Però è romantica, no? Un parlamentare che crede alle sirene. Vabbè, va bene, ma infatti ognuno può fare quello che vuole. Certo. Allora, va bene. Anche Andrea. Agli UFO può credere, anche a IT se le piace, può anche credere a IT, telefono, casa. Certo, benissimo. Grazie. Danzano come zanzare. Queste tanto c'è un sacco di gente che ci dice che Corsaro ha ragione, eh. Vabbè, con Sallusti che è tornato ai nostri microfoni, direttore del giornale, però, ma alla fine la vicenda della Grazia, pare che Berlusconi sia andato su tutte le furie, quella presentata dalla signora Santanchè, o no? Ma paga secondo dicono che ricostruisce un retroscena. Non è vero, non è contento. No, non lo so se è vero o non è vero. Dico che non c'è nessuna dichiarazione in tal senso attribuibile con certezza al presidente Berlusconi. Beh, l'avrai sentito in questi giorni, però immagino. No, assolutamente no. No. Però voglio dire, pare che questa iniziativa di Daniela Santanchè, la raccolta di firme per la grazia, è stata un po' smentita, è vero, però. In realtà adesso firmo, io sto andando sul sito del giornale per firmare, aspetta un attimo. Ma quella è sulla candidatura, un'altra cosa, quella è sulla candidatura. Sì, però la cosa della candidatura oggi pare che sia definitivamente tramontata, Sallusti, perché l'Unione Europea pure ha stoppato tutto. No, ma è ovvio che credo che sia tramontata la candidatura, è tramontata la grazia, è tramontato tutto, proprio qui siamo al buio totale rispetto al buon senso, alla democrazia. Ma vedi, io non voglio entrare nella questione di Forza Italia, è un problema loro, io sono abbastanza dei miei. Io penso che le due cose nascano dalle parole di Berlusconi che dice io voglio candidarmi. E questo ha creato, e lo dico spiegando perché il giornale ha iniziato a raccogliere film in tal senso, ha creato un moto nell'elettorato di Berlusconi, nella gente, che dice ma il presidente dice che vuole candidarsi, facciamo qualcosa affinché ciò possa avvenire. Ho capito, però. Ecco, dopodiché il fatto che tecnicamente molto difficilmente, io penso addirittura non è possibile che accada, non toglie che la testimonianza abbia un valore. Allora ci sono degli elettori che hanno la voglia di testimoniare una vicinanza. E allora perché non spingono per mettere un nome Berlusconi in lista? Che ne so, la figlia, una delle figlie, così a caso, per mettere un Berlusconi qualsiasi, poi uno viene votato, tu subito dopo si dimette e non va al Parlamento Europeo. Cioè basta mettere un Berlusconi in lista, no? Potrebbe essere un'idea. Mettiamo che ne so, Luigi Berlusconi, Eleonora Berlusconi, Barbara Berlusconi, Paolo Berlusconi. Fino a Marina Berlusconi. Paolo. Perché ti dimentichi sempre di Paolo? Un Berlusconi ogni 5 circoscrizioni. Ci saranno 5 Berlusconi in giro, no? Luna Berlusconi, la mia amica Luna Berlusconi. O no? Ma queste sono scelte che deve fare la famiglia Berlusconi. È una scelta che ha un suo, è una opzione che ha una sua appeal sicuramente. Guarda, io ho dato una grande credo idea. Credo che sia stata anche presa in considerazione sulle elezioni politiche nel caso la situazione fosse precipitata, parlo di ottobre, sì, ho capito. Dicembre. E ci fosse stato bisogno di andare immediatamente alle urne. Però guarda che è una grande idea, 5 Berlusconi per 5 circoscrizioni, Barbara, Eleonora, Luigi, Marina e pure Luna, 5 Berlusconi diversi, ognuno con uno, poi si dimettono subito dopo, portano un sacco di voti, arrivederci e grazie, pubblicità, torniamo subito, saluti, resti. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Allora siamo col direttore del giornale Alessandro Sallusti, Davide Parenzi in collegamento da Roma. Ripeto questo tweet di Corsaro, deputato di Fratelli d'Italia, che sta facendo discutere moltissimo anche qui. Sono arrivate un sacco di telefonate. Adesso però risparmiateci i racconti sofferti delle baby squillo, scrive Corsaro. Mignotte consapevoli e spontanee, giovanissime ma sempre mignotte. Vabbè. Se mi permetti? Sì, dimmi. Se mi permetti, non è che ci sia nulla di nuovo, perché Venditti negli anni 70, nella famosa canzone Compagno di scuola, una strofa diceva quella del primo banco che la dava a tutti meno che a me. Quindi sono passati 40 anni, ma tendenzialmente puttanieri e le femmine sono tendenzialmente mignotte. Sì, ma lì si trattava di coetanei, però. Cioè, tu dici che i maschi sono tendenzialmente puttanieri e le femmine mignotte? Eh beh, se no, ma è una storia che va avanti da quando è nato il mondo, non è che. Vabbè, non è che sono tutti così, direttore. No, non tutti, assolutamente. Non sto dicendo tutti, ma sono fenomeni che esistono da sempre. No, ma su questo non c'è dubbio. Ma nella canzone di Venditti si parla di coetanei. Cioè, non si parla di prostituzione, di induzione alla prostituzione. Cioè, alla fine la discussione è: queste ragazze erano consapevoli pur avendo 15-16 anni? Beh, pare da quello che dicono di sì, perché si volevano comprare le borsette, sicuro, volevano comprare le ricariche del cellulare, sì, eccetera, eccetera. Sai, non è l'età, che l'età fa una differenza rispetto a un reato, rispetto a una disponibilità. Nessuna differenza, insomma. Vabbè, torniamo sulla politica. Io voglio capire una cosa. Allora, abbiamo detto la candidatura mi sembra ormai tramontata, non se ne fa più, era solo una cosa di bandiera, così per fare casino. No, non è per fare casino. Io credo che la testimonianza abbia un valore. Beh, la raccolta delle firme la fermate allora? No, assolutamente, perché fermare la raccolta delle firme? Deve rimanere agli atti che c'è un un popolo che è indignato, incazzato e che ritiene di, che sta subendo lui, popolo, oltre che Berlusconi, una grandissima ingiustizia. Quindi questo non mi sembra inutile, anzi lo trovo molto dignitoso. Ma Confalonieri, in un'intervista al Foglio, credo di sabato, ha detto una cosa sulla Grazia e Napolitano, ma anche tu sei di questo parere? Cioè, sei d'accordo sul fatto che Napolitano stava per dare la grazia a Berlusconi o era pronta a dare la grazia a Berlusconi e Berlusconi l'avrebbe rifiutata perché nell'accordo c'era il ritiro dalla politica? Cioè, è andata così secondo te? Beh, era una grazia, mi fido delle parole di Confalonieri, che c'era, era Quirinale, quindi immagino che non racconti frottole. Risulta anche a me che Napolitano era disponibile eventualmente a prendere in considerazione a delle condizioni inaccettabili. Io credo che solo nei regimi uno ammette le proprie colpe firmando una confessione pur di sospendere una pena per se stesso e per i propri cari. Questo succede nelle dittature, no? Cioè, c'è molta letteratura, no? Uno torturato alla fine dice sì, va bene, avete ragione, sono io, basta che sospendete la tortura. Ecco, Napolitano voleva fare una cosa del genere. Cioè, che voleva fare? Non ho capito. E non capisco perché una persona che si ritiene innocente debba ammettere una propria colpa in cambio di una grazia. Sta fermo sul punto, non sono colpevole e quindi merito una grazia. Non merito una grazia perché me ne vado all'estero, chiudo il partito, le fabbriche e non mi vedete più. Cioè, Napolitano voleva una resa. Napolitano voleva una resa di Berlusconi su tutti i fronti? Beh, di questo tipo, immagino, lo dice in maniera alla Confalonieri, quindi in maniera molto soft. Lo dice Confalonieri. Cioè, voleva che sparisse tutto, dalla vita pubblica, sostanzialmente. Voleva che sparisse, ma insomma, questo è un ricatto, non è una grazia. Cioè, voleva compiere quello che poi in realtà è la sua missione di questi ultimi anni di mandato presidenziale, togliere Berlusconi dalla vita politica. Si è provato in tutti i modi. Si è tolto da solo, diciamo, non è che l'ha tolto qualcuno. Chi? Beh, l'hanno tolto dire, anche i giudici hanno avuto il loro ruolo in questa vicenda. E che devono fare i giudici? Berlusconi dire, fuori. No, siccome è un politico non possiamo attenzione, condannarlo. I giudici, oggi il Corriere della Sera, non il giornale, il Corriere della Sera svela che a Milano c'era, e forse c'è ancora, una cabina di regia per assegnare i fascicoli, tra l'altro violando le consuetudini e le norme interne, violando i fascicoli ai PM più disponibili a accanirsi contro Berlusconi. Questo non mi sembra una roba anche se uno dovrebbe essere d'accordo sul fatto che il capo di un tribunale, di una procura, assegna i fascicoli a chi vuole. Cioè, questo è stato per esempio un cavallo di battaglia del centrodestra. Cioè ma chissà, solo su Berlusconi lo assegna ai PM dichiaratamente anti-berlusconiani. Lo dice un PM, non lo dico io. Sì, sì, sì. C'è un posto al CSM di un PM, tra l'altro, molto autorevole, una persona serissima. Che dice, ma qui qualcuno ha barato. Vabbè, una cosa su Saviano, perché nei giorni scorsi, dopo l'arresto della cosiddetta Dama Bianca Sallusti, Saviano ha fatto un tweet in cui ha detto: "Bah, adesso bisognerebbe indagare sui voli di Berlusconi", facendo intendere che quando la Dama Bianca, la signora Gagliardi, era con Berlusconi, potesse trasportare della droga. Che ne pensa di questa cosa di Saviano? Ma penso che ogni volta che finisce nei casini qualche personaggio che ha incrociato Berlusconi, si punta il riflettore su Berlusconi e non più sul personaggio. Questo è un personaggio che ha attraversato tutta la vita politica romana, l'arco costituzionale della vita politica romana in lungo e in largo, tutti i partiti. No, ma su Saviano in particolare, perché Saviano? Eccetera. Saviano, cioè, o sa qualcosa o getta fango. No, Saviano, come dice, teorizza, e non solo teorizza, no, che Berlusconi sia con la lì. Chiunque abbia a che fare con Berlusconi sia un delinquente, quindi non fa testo in questo senso. Mi chiedo perché Saviano non dice: allora indagate su Tabacci. Secondo alcune ricostruzioni, questo signore avrebbe anche lavorato, avuto a che fare non so in che modo con Tabacci, e poi con esponenti della sinistra romana. Sì, sì. Questa era evidentemente una faccendiera in cerca di avventura, e in questa avventura ha incrociato molti personaggi. Guarda caso, nonostante non sia più senatore, nonostante là, allora è la corriere della droga di Berlusconi. Ma questo lo dice Saviano, col punto interrogativo. Col punto interrogativo. Ma anche Santoro ha fatto una trasmissione per sostenere non droga ma altre cose, e come dire, ieri è stato condannato per diffamazione perché le sue ricostruzioni erano assolutamente fantasiose. Comunque, caro Sallusti, oggi c'era la corona inchiavabile con Merkel, con Renzi. Merkel con Renzi, tutta un'altra atmosfera. Berlusconi lì sarebbe stato l'inferno, diciamo la verità, o no? Cioè, cucù, corna. Oggi si è trovato di fronte uno di 39 anni che non la chiama. Ecco, aveva al massimo il cappo, il bottone del cappotto messo male. Messo un po' male. Ma guarda, ho visto un Renzi comprensibilmente emozionato e un po' di disagio, ma del resto questo è anche quasi simpatico, perché lui 3 mesi fa faceva le riunioni con l'assessore alla viabilità del Comune di Firenze per le buche nelle strade, si è ritrovato a farlo con la Merkel, e quindi capisco che c'è un problema psicologico nel merito, e questo addirittura me lo rende simpatico. Beh, insomma, c'è una certa, lo si vedeva che non era solito, un po' impacciato, diciamo, un po' impacciato Mister Bean, veramente lo dico sinceramente, nel merito, sai, nel merito vedremo, dai, nel merito vedremo quello che proprio, no, nel merito a me sembra una cosa che la Merkel abbia detto a Renzi: Matteo, stai sereno. Cioè, le ha assicurato un po' di copertura politica, insomma. No, le ha assicurato, no. Ma alla Renzi maniera, alla maniera di Renzi. Alla maniera di Renzi. Mi sembra che la Merkel sia rimasta assolutamente irremovibile sulle sue posizioni, però lo vedremo nei prossimi giorni. Senta, D'Alussi, ma nessuno le ha mai offerto una candidatura, dato che si parla sempre di candidatura? Non mi dica che nessuno ha mai detto a Forza Italia: candidiamo, no, Sallusti. Come no? No, nessuno. Perché è troppo scomodo, lei, che è un rompicoglioni. No, e vi autorizzo a venirmi a prendere se per caso un domani dovessi venire e dovessi accettare, perché addirittura a parte perché? Che i giornalisti in politica non hanno mai avuto grande successo, può essere che ci siano delle prime volte, ovviamente, e in secondo luogo perché non è assolutamente il mio mestiere e farei dei danni anche lì, non ci ho fatti abbastanza nella mia professione. Dei bagni ma intanto anche Giuliano Ferrara ha fatto dei disastri, danni. Però io voglio capire una cosa: alla fine, siccome oggi è stato questo incontro Merkel, per concludere, Merkel Renzi, ma la frase culona inchiavabile è stata pronunciata sì o no? Alla fine, una cosa definitiva su questa va detta. Ma non risulta da nessuna parte, in nessun verbale. Ci avete fatto un titolo. Da nessuna porta. Risulta perché il fatto sostiene che questa frase risultava in un'intercettazione mai messa agli atti. Quindi se è vero o no, non lo sa nessuno. Però c'è da crederci. Io penso di sì. Conoscendo Berlusconi c'è da crederci. Tra una cosa e l'altra. Però ecco, la differenza è che, conoscendo Berlusconi, dico che Berlusconi potrebbe averlo detto, ma con simpatia, non con astio. Con una simpatia? Con simpatia, non con astio. Beh, adesso capisco che non è una frase simpatica, ma come dire, c'è un modo di dire le cose che denota anche uno spirito, un atteggiamento. Beh, se lo diceva con astio, dire quel cazzone di Parenzo, ma se uso un certo tono, sì, non mi offenderei, credo che si offenda. Se ne uso un altro mi querela. Cioè, se uno dice ridendo quella culona inchiavabile, allora magari se lo dice ridendo è quasi, non dico un complimento. Non è che l'ha detto in una conferenza stampa, se l'ha detto, ammesso che l'abbia detto, evidentemente l'ha detto al telefono con una persona amica di cui, come dire, si fida. Va bene, grazie, a presto, arrivederci. Siamo qui con Gaddo da Pisa. Buonasera, Gaddo. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Chiamo perché dal commento del deputato di Fratelli d'Italia mi associo assolutamente, sono d'accordo con lui. Stiamo parlando di donne, perché a 16 anni sono donne, che in qualche modo si sono offerte, nessuno le ha obbligate, peraltro appartenenti anche ad un mondo che economicamente non aveva assolutamente nessuna necessità, se vogliamo usare un termine, diciamo, associabile a donne che provengono dal terzo mondo, da chissà quali ambienti sottosviluppati. Cioè, lei dice erano consapevoli, al di là della minore età, consapevoli, non l'hanno fatto per fame, ma semplicemente per togliersi qualche sfizio. Poi lasciamo perdere il rapporto che hanno con la famiglia, con i genitori, ma come dice Corsaro, sempre mignotte sono. Esatto, secondo me sì, il termine corretto, perché poi alla fine così si capisce bene, è quello alla fine. Cioè, possiamo usare anche altri termini se vogliamo usare, diciamo, termini meno crudi, ma la sostanza è quella, cioè, quindi forse, diciamo, in qualche modo la forma non è molto condivisibile, ma la sostanza sì. Grazie, senz'altro. Luisa da Bergamo. Buonasera, io sono stufa di sentir parlare di ragazzini di 15 anni col nome di Mignotti. Bravo. Si rivolga a Massimo Corsano. Bravo. No, finire di parlare. Un uomo di 50 anni, se non altro per l'esperienza, dovrebbe avere un po' di vita di cervello. Se uno ti dice che ha 19 anni, come minimo gli chiedi la carta d'identità. Poi parliamo di quegli uomini cinquantenni schifosi, io ho una figlia di 18 anni, che per fortuna, o per disgrazia, non lo so, è molto carina, era in giro con me, aveva una maglietta, un golfino, pantaloni jeans normali e scarpe da ginnastica. Siamo passati davanti a un bar con questi schifosi e si picchiavano dentro e mormoravano e sbavavano. Parliamo un po' di loro. Allora, ciao Luisa, allora abbia pazienza. Se sua figlia è una ragazza carina si potrà guardare, no? Cioè, o no? Ho capito, ma guardare un conto, picchiarsi dentro, sbavare, guarda qui e parole. Vabbè, quello dipende, parole. Dipende da come lo si fa. Se uno lo fa a voce alta, ovviamente no. Ma se uno guarda, se uno si capiva benissimo. Vabbè, ma si abitua ai commenti, signora Luisa, se sua figlia è carina, si abitua ai commenti di sua figlia, poi sua figlia ha 19 anni. Ma di chi? Vabbè, ma non è un problema quello là, basta che ci siano dei limiti e la legge pone dei limiti alle violenze, agli improperi, a tutto. Cioè, se uno si deve spaventare perché ci sono quattro imbecilli che fanno degli apprezzamenti. Io non mi spavento, però si parla delle ragazzine male, gli uomini no, vabbè, sono cose che capitano, si fa e così è la natura. Ha ragione. Ne di porcate perché è natura. Come, è scusi? No. Non ho capito. Lei è una figlia di 8 anni, la vorrò vedere al banco quando ne avrà 15 o 16. Che vuole che le dica? Mi arrenderò. È ora di finirla, i mignotti di qua e i mignotti di là. E loro cosa sono? Maiali? Questo qua era pure sposato, ha due figli. Vabbè, questo qua è un altro discorso. Peggio. Signora Luisa, non si arrabbi con me, la parola mignotta non l'ho usata io, non l'avrei usata probabilmente, l'ha usato un deputato della Repubblica di Fratelli d'Italia, il signor Corsaro, si rivolga a lui. Peggio mi sento, è peggio ancora. Si rivolga a lui, cosa vuole che dica? Io spero che mi senta, spero che mi senta. Volevo dire che fosse stata sua figlia, a parte che io andrei dai genitori di queste qua. Primo. Cioè? Andrei a vedere che cazzo stanno facendo, dove vivono. Beh, ma sono andati i poliziotti, i carabinieri dai genitori di queste, non è che non sono andati. Ma ho capito, ma una che ti viene a casa con i Ray-Ban, con le scarpe firmate e tu non gli hai dato i soldi, ma cioè, da dove pensano che arrivano questi soldi? Ciro da Napoli, grazie, Ciro. Buonasera, Luciano. Dica. Ecco. Io vi volevo dire, tengo una mia teoria, sempre su questa prostituzione giovanile. La Mussolini, sì. Io credo che sia colpevole pure lei. Pure lei, di che cosa? Di quello che ha fatto il marito. E vi spiego perché. Quando uno va a puttane, questa prostituta è molto giovane, è minorenne, questo non arriva all'inizio. Nessuno che va all'inizio con una minorenne che vuole andare a puttane ma con una minorenne, assolutamente. Quella è la fine di un percorso. All'inizio si va con la donna normale, diciamo così. Sì. Poi si cerca quella che mo si dice a MILF, poi si va d'orecchione, poi si va do gay. La minorenne Ciro è la fine di un percorso. Cioè, allora, la sua teoria è che la minorenne è la fine di un percorso. Uno come inizia? Con chi? Inizio con la femmina normale. Con la femmina normale, poi si scoccia e allora va cercando qualche cosa più speciale, più depravata, lo sapete bene. E chi è? Il transessuale? Ok, prima diciamo tutte le forme di sesso con la donna normale. Sì. Poi va con orecchione, poi va troppo con gay, con travestito. Sì, scusi, signor Ciro. Aspetta. Poi? Poi alla fine per cercare qualcosa di diverso, certo, va con la minorenna. Sì. Ma questo è un percorso lungo di anni, e allora tranquilli. E allora? Allora da questo percorso la Mussolini che dice che lo conosceva dall'età di 15 anni innamoratissimo, dice lei, no? Ma chi guardava, ma chi pensava, ma chi sentiva? Ho capito, cioè è da tempo. E come ha elaborato questa teoria scientifica, professor Ciro? Da dove l'ha estrapolata, diciamo? Dove da dove? Io sono un tassista, vivo in mezzo alla strada. Ma anche lei ha fatto questo percorso, Ciro? Cioè, ecco. È passato dalla perversione, dalla donna normale, poi i trans, i gay. No, Cruciale, io sono stato con qualche prostituta quando stavano alla Doganella e quando io tenevo 18 anni, 19 anni. Ma ne tengo 53 e fortunatamente tengo una famiglia di cui mi posso ritenere soddisfatto e sono ancora fedele. Per cui lei niente mignotte. Niente mignotte lei. No, no, attualmente no. Ma prima di sposare, non nego, all'età e non neghiamolo, non neghiamolo, per carità, per carità. Grazie, traffico. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non così. Sono in preda a una psicosi. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei si va come, da quanto è single? Da 4 anni. Continua il grande contest, il grande reality. La Zanzara trova il fidanzato a Lara Comi. Eurodeputato di Forza Italia, 31 anni. Una ragazza molto precisa, molto carina, molto seria. Mutuo esente. Mutuo esente, non lo so. Mutuo esente. Sì, è mutuo patente esente. Patente B, automunita, come nei curricula, non bisogna scrivere. Mutuo esente. Mandare i vostri curricula, verranno esaminati, spediti all'interessata che poi li valuterà. Mettete anche l'orientamento politico. Beh, può se essere volete, utile se in volete, questo caso, può essere utile. La Zanzara at radio24.it. Cioè, se guardate un che è una roba seria, eh. Cioè sei un notab, ad esempio. Sì, no, no? Se siete notab, se siete estremisti di sinistra, se siete anti-berlusconiani di ferro, se siete come Don Farinella, se volete Berlusconi al patibolo, è meglio non mandare nulla. Certo, se siete del Partito Democratico, renziani, moderati, più facile. È più facile, sì. Poi se siete di Forza Italia, poi non plus ultra, no? Se non ve ne frega un cazzo, né di Forza Italia né di Ezzi, va bene lo stesso. Allora, il primo di questa sera, perché ne sono arrivati a decine, è Antonino. L'età sto cercando di rintracciarla. Forse lo dice non l'ha dentro. Scritta. Lo dice. Sentiamo Antonino. Ciao, sono Antonino di Roma, ho 37 anni. E sono romantico, ho la testa sulle spalle e sono molto dinamico. Mi piace fare tante cose, tante passioni, dalla barca a vela ai giri in motocicletta. E mi propongo perché è difficile trovare una ragazza in gamba che non abbia paura di confrontarsi col mondo. Quindi, dato che nella vita non bisogna annoiarsi mai, bisogna fare diverse esperienze insieme, perché non provare a partire da una cena, così ci si conosce. E questo mi pare serio, 37 anni, che no, dici? È drammatico però. Perché dici? Cioè, che, siccome è veramente, se dà la voce, sembrava proprio compreso nella parte, è serio. Beh, è drammatico. Vabbè, hai già bocciato questo, fallo bocciare la Comi, no? Questo, ma io però ho Roma, un potere di vita anni. O di morte. Sentiamo invece questo 52enne, ma è buono 52enne, perché 20 anni di più. 52 anni. Floriano, speriamo che faccia un mestiere degno, questo Floriano. Il contest per Lara Comi, troviamo un fidanzato a Lara Comi. Ciao, sono Floriano, chiamo da Busto Arsizio in provincia di Varese. E sono un custode di auto sottoposte a sequestro giudiziario. Desidererei che l'onorevole Lara Comi passasse una notte di fidanzamento con me, non esclusivamente per questioni sessuali, ma per parlare un po' di tutto e magari anche poi concludere con una vera amicizia che possa sconfinare anche oltre la notte che propongo in questa mia esternazione. Incrocio le dita e aspetto ansioso che mi arrivi risposta positiva dall'onorevole. Allora, io dico una cosa, questo qua fa il custode di auto, già, vabbè, per carità. Di auto sottoposte a sequestro giudiziario. Sì, non dico niente. Custode di auto sottoposte a sequestro giudiziario. Non fare però. No, ho capito, però quella non fa fare il classista. Manager, è laureata alla Bocconi, col custode di auto del sottoposto a sequestro giudiziario. In questo sei proprio su. Classista, no, sei. Ma io dico che è possibile. Prevedo già che sarà un flop. Poi l'altra cosa è che vuole passare la notte. Cioè è vuole questo farci... il punto. Dai. Floriano. No, poi dice anche però senza fare. Perché no? Perché non di un caffè, ad esempio? Questo subito, sì, boom, si butta sulla notte, dai, capito? Su. Emilio, 34enne, Roma. Emilio Trucco. No, quello non è che c'è, quello è l'avvocato Trucco. Io sai che vai tu a sapere che gli amici mandano i curricula. Ma no, così. Questo non è. Vai tu a sapere. Non è lui, no, quello è sposato. Amico Emilio. Il nostro amico Emilio. È sposato Trucco. Quello, dai. Lo so perfettamente, è un amico. E allora non è che si propone con la Comi, dai. Ma che ne so, hai detto Emilio. Ma sì, ma al massimo se la scoperebbe una sera, dai, su. Ma che dici? Ma sì, dai. Ma che è matto completo? Ma sicuro, dai. Ma sei matto proprio. Ciao, sono Emilio, 39 anni, sono ingegnere di Roma, vorrei uscire con Lara perché ho girato mezzo mondo, ho visto tante cose, mi è venuta voglia di fermarmi un po', mi sembra una persona interessante e visto che i nostri profili sembrano sovrapporsi, certo temo che non la potrò mai aiutare in politica, però è un ottimo inizio, insomma. Allora, devo correggermi, 39 anni, ingegnere, ha passato tanti anni a lavorare in giro per il mondo, questo potrebbe essere interessante, eh? Sì, ma perché uno di 39 anni non si trova una fidanzata in modo normale e sente il bisogno di mandare... Magari ce l'ha le fidanzate, però... Coglie l'occasione. Ma che mondo è interessante questa ricerca sociologica che abbiamo lanciato, perché apre uno squarcio agghiacciante sul paese. Senti, però, questo Michele, 29 anni, un po' pochini, eh. Ma tu faresti mai una roba simile, cioè di mandare un... Lavora nel commercio, oltre che come giornalista e scrittore, alto 1,90, questo non è male, però. Ciao caro Lara, ti saluto dal Trentino. Ho sentito che stai cercando un fidanzato. Io sarei qui apposta per te. Sono alto, prestante, lavoro nel commercio, 1,90, abbronzato, vado tanto con gli sci. Secondo me ti stai annoiando con quella storia della politica in Forza Italia. Dovresti mollare tutto e venire su da me in montagna. Farò vedere come viviamo noi qui nei magi, nei fienili. Io lavoro nel commercio, ho tutte le carte in regola, guarda, vieni qui e io ti aspetto a braccia aperte. Beh, qui siamo al top, eh? Alto, prestante, abbronzato. No, ma vieni qua nei fienili. Cioè, il punto è anche quello, lascia stare l'educazione fisica che lui mandate si auto-rappresenta. Mandate i vostri curricula, la zanzara è radio24.it. Volete fidanzarvi con Lara Comi, che cerca un fidanzato single da 4 anni? Beh, questa è l'occasione giusta, mandateci. Non siete seri per niente. Ma no, non vogliamo essere seri. Giorgio da Roma. Giorgio? Pronto, buonasera. Dica. Buonasera. Niente, volevo parlare un momentino del CNEL perché mi sembrava di dover fornire col mio intervento un contributo sostanziale ad una corretta informazione. Non trovo corretto dare la croce addosso ai dipendenti. Ma nessuno dà la croce addosso ai dipendenti. Va chiuso questo maledetto CNEL, come diavolo si chiama? Chiuso con la sala cinesca. 20 anni là dentro. Vabbè, so esattamente di che si tratta. Io dico, i dipendenti sono dipendenti pubblici, ministeriali. Solamente segretario generale e direttore generale si sono arrangiati e sono equiparati a praticamente o Camera o Senato, o hanno avuto degli aumenti sostanziosi. Io trovo che invece il punto andrebbe messo sui consiglieri, che sono tutti quanti di nomina dei sindacati, sia di Confindustria che dei sindacati dei lavoratori, e di nomina presidenziale. Guardi, a noi tutte queste cose che riguardano le cose interne del CNEL per tanti anni non ce ne frega niente. CNEL non ce ne frega niente. Ma se volete l'unica cosa c'è quei soldi. No, per carità, qui è pieno anche di figli di gente messa lì per raccomandazione, di clientelismi. Ma tutti i notabili sono passati da Prodi agli altri, sono passati come consiglieri del CNEL. Il Presidente della Repubblica ha delle persone di sua nomina, cioè nomina per ogni consigliatura. Vabbè, ma e naturalmente li manda lì. Però Giorgio, resta il fatto che questo ente è inutile e va cancellato. Dopodiché questo in che tempi avverrà vedremo. Dove andiamo? Manuela, Brescia. Buonasera, volevo parlare del discorso di prima delle ragazze minorenni che si prostituiscono. Sì. Secondo me non sono proprio poverine, perché una ragazza a 15 anni sa cosa vuole fare e se lo fa, lo fa apposta. E dunque, magari il termine mignotte è un po' esagerato, però sanno cosa stanno andando incontro. Cioè, loro vogliono avere dei privilegi e dunque devono il loro corpo. Emanuela, questa è la teoria, diciamo, di quelli che sostengono basta di sentire le lamentele di queste qua sui giornali, che in realtà sono gli interrogatori di ragazzine minorenni, solo però, questo. Sì, però niente, sembrano niente molto sfrontate, eh. Ma non questo non toglie la cosa che magari hanno fatto, manco si rendono conto loro e ne pagheranno il prezzo più avanti quando cresceranno, di essere additate come quella dell'inchiesta delle baby prostitute. Cioè, parliamo di ragazzi, quei commenti su internet rimangono. Il deputato della Repubblica che ha scritto quelle cose su queste è una bestia. Sono ragazzi. Beh, in questo sì, si è comparato da bestia. Certo, io dico, se lui avesse dei figli, adesso non lo so, sono anche amico di Massimo Corsaro da tanti anni, ma non credo che si sarebbe espresso in questo modo. Un attimo solo, torniamo su. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi. sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa che un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre. Righi un saluto, righi un saluto. Ciao a tutti, sono in cream, sono in cream, sto per cantare. Se ne va un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi. A quello viene pagato, ragazzi, viene pagato, e Riccardo Fogli, ospite dei russi, è andato in Crimea, che gli frega a lui della Crimea, della, dell'Ucraina, eccetera, una questione molto controversa in cui torti e ragioni, insomma, non sono facilmente distinguibili. Beh, però, sai, in un momento come questo, a me io me capisco... ne frego del fatto che l'Unione Europea, me ne fotto totalmente che l'Unione Europea ha detto, ha fatto delle sanzioni nei confronti della Russia, ha detto che il referendum è illegale, me ne fotto perché non ti interessa l'argomento, perché no, te ne freghi degli ucraini, te ne freghi di risolvere il referendum, stai con Putin. Come ha detto Cacciari, la maggior parte degli abitanti della Crimea sono russi, sono russofoni e non aspettavano altro. Non è che l'indipendenza dei popoli o l'autodeterminazione come vale gli iracheni erano con Saddam quando c'era Saddam, cioè sono regimi, si chiamano, dai, ma quali quelli regimi? Si chiamano, ma quando sono mai? Regimi, ma quando no, mai? Sono democrazie liberali, vale a corrente alternata adesso l'autodeterminazione dei popoli, a corrente francamente alternata. Tra i russi e gli americani io mi fido di più degli americani, fra io personalmente non pensavo che tu invece fossi dell'esercito di Putin, anche tu. Ma non sono affatto dell'esercito sì, di Putin, sì, tra gli italiani arruolati nell'esercito dei sostenitori di Fabio Putin. Da Catania, Fabio. Ciao Puciani, volevo dire questo, tu stai passando la canzone di Riccardo Fogli un po' per prenderlo per il culo, perché magari non lo ritiene un artista, lo ritiene un no, per niente, che ma quando mai? Concetto. Ma non è detto. Allora, i russi in Crimea hanno votato, hanno scelto le frene, sono passati con la Russia. Qual è il problema? Sono di Catania. Ma guardi, sono d'accordo con lei. Domani mattina stesso io voterei per la secessione di questa cazzo d'Italia, ne ho rotti coglioni abbastanza. E poi gli volevo dire un'altra cosa, signor Corsaro, io spero che le sue figlie siano chiamate da porci grossi con la panza e culi flaccidi. Sia calmo, non ho capito che cosa ha detto. Non ho capito che cosa ha detto Fabio. Il dottor Corsaro, no? Diceva che le quindicenne sono delle mignotte perché vanno con gli uomini a pagamento. Allora, quando c'hanno i culi flaccidi grossi e con i soldi, io gli auguro, signor Corsaro, una situazione del genere. Poi vediamo cosa dice lui. Ma che c'entra? Le augura, no, che, c'entra, che cosa c'entra, gli augura? Che le figli... Allora, ascoltami, Cruciano, io ho tre figlie femmine, giusto? Sì. E le metto nel mare del signore, non mi meraviglio di niente. Però un padre che va a mignotte con prossimo vestito la sera e c'ha figlie femmine, come va a casa a dargli una carezza o a dargli un bacio? Ma questa è un'altra cosa. Non deve aver toccato con delle mani sozze altre bambine. Cruciani! Ma questo è un altro discorso. Dove vogliamo arrivare, Cruciani? Dove vogliamo arrivare? Se io ho tre figlie femmine, la sera mi devo vergognare perché vado a puttane a salutare i miei figli che minorenni, come loro, perché potrebbero essere un giorno loro a capitare in queste disgrazie, in queste mani di questi porci con i culi flaccidi. Cruciani, svegliamoci, non facciamo passare tutto come per la normalità, una cosa di questa non è normale. Collegamento dagli Stati Uniti, da Washington, dove nevica, mi sembra di capire, Edward Luttwak. Buonasera. Buonasera. Professore, come va? Beh, meno male. Si tira avanti. Ma sta nevicando? Sì, nevica, qui c'è la neve tutto intorno a me. Beh, qui sono giornate invece di sole, la temperatura si è alzata in Italia, venga presto perché... I sindacati l'aspettano, professore. Vado a fare il bagno. Fra un po', non subito. Ecco. Senta, professore, ma tu sai che è ricchissimo, professor Luttwak. Ma ricchissimo, perché è ricchissimo. Uomo che ha fatto... Che... Parenzo dice che lei è ricchissimo. No, ma giustamente ha fatto... Vero? Corrisponde a verità, professor Luttwak, che lei è ricchissimo? Bravissimo e ricchissimo. Cosa vuol dire? Dammi la definizione. Non lo sa nemmeno lui, cioè che lei possiede più di 50 milioni... Ha lavorato molto. 50 millions of dollars. Quindi sono un poveraccio. Meno di 50 milioni. Un poveraccio, vabbè. Senta, professor Luttwak, ma Berlusconi vorrebbe candidarsi in Europa alle elezioni europee. Lei che cosa ne pensa di questa follia di Berlusconi? No, guardi, è una questione legale. Certo. Io sono sicuro che ci sono leggi che regolano queste cose. Sì, che impediscono. Visto il fatto che il Parlamento europeo, lui vuole candidarsi al Parlamento europeo? Sì. Ecco, visto che nel Parlamento il Parlamento europeo è già un giardino zoologico di persone strane che hanno molto meno da dire che Berlusconi, sì. Sicuramente lui potrebbe avere una presenza lì, però io non sono un esperto di leggi e di regole, no, ma non si può e candidare. Della giustizia italiana non ci capisco proprio niente. Sì. Per il fatto che apparentemente tutti violano la legge tranquillamente, cominciando dai magistrati, sì, e nessuno ne fa niente. Quindi leggi italiane non le capisco. Suppongo che ci sono regole europee. Sì. No, ci sono regole europee che impedirebbero a Berlusconi di candidarsi. Lei dice, è curioso. Impedirebbero. O ci sono regole o non ci sono. No, regole, no, ci sono regole. Ci sono regole. Io suppongo saranno rispettate e spero bene. E per il resto non ho opinioni, posso solo dire che fra nel giardino zoologico che è il Parlamento europeo, Berlusconi sicuramente non sarebbe l'ultima persona che uno vorrebbe avere là. Cioè farebbe la sua figura anche lì. Sì, farebbe la sua cosa e si alzerebbe quando la gente prende, attaccano l'Italia troppo. Beh, professor Lutua, che dobbiamo dirlo chiaramente, il Parlamento europeo è una roba inutile che andrebbe soppressa, diciamolo, diciamolo chiaro. Non è questo, è che il Parlamento europeo è la ragione per la quale la Banca Centrale Europea è l'unica istituzione del mondo e di questo tipo che assolutamente non ha un padrone politico. Quindi la Banca Centrale Europea è la cosa più non antidemocratica, è vero. Inventata sulla faccia della terra, per il fatto che il Parlamento europeo, che dovrebbe controllare istituzioni europee, cominciando dalla Banca europea, non riesce a combinare niente, solo fanno discorsi inutili. No, questa ha ragione. Senta, ma come viene visto lì da Washington questo tentativo di Renzi? Acqua fresca oppure riforme vere? No, allora, se Renzi... Ecco, Renzi è arrivato primo ministro senza nessuna elezione, quindi non c'è stata campagna elettorale, quindi lui non si è presentato agli italiani, quindi lui non si è presentato al mondo. E adesso è spuntato fuori in un processo abbastanza oscuro. Se lui adesso fa quello che Cameron ha fatto in Inghilterra, cioè di rilanciare l'economia ad alta velocità, sì, innestare la quarta marcia a partire a 90 all'ora, sì, usando il metodo di Cameron, sì, che è un metodo totalmente vero, pratico, eccetera, sì, non è una fantasia. Ma non mi pare che se sia lui quella. Se fa questo, allora tu sarà applaudito. Se invece non fa questo, fallirà. Però, professore Lutua, non mi sembra la direzione quella di Cameron, cioè quella di licenziare dipendenti pubblici. No, qui no. Ha dato pare Cameron che ha licenziato 500.000 di pubblici dipendenti e ha tagliato le tasse fortissimo. Risultato è che la disoccupazione in Inghilterra è piombata. Però, professore, qui mi sembra che siamo giù rapidamente. Questo è, i giovani inglesi hanno lavoro, questa è l'unica cosa che conta, il resto sono chiacchiere. Però, professore, qui mi sembra che lui dà un po' di soldi a quelli che guadagnano molto poco, 1.500 euro al mese, li dà 80 euro al mese, poi alza le tasse sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%, mi sembra una politica di sinistra, no? O no? No, guardi, non si tratta di... c'è un numero, il numero è 1.8. Se l'economia italiana non cresce di 1.8, l'ho letto un articolo che ha scritto Cucchiani, che è un banchiere, sai, i numeri, e se non aumenta l'economia di una crescita di 1.8, la disoccupazione aumenta, cioè per non fare aumentare la disoccupazione tu devi crescere di 1.8. Se non cresci di 1.8 aumenta la disoccupazione. E l'unica maniera di crescere è di tagliare le tasse, così la gente va... compra roba e gente deve vendere roba, quindi ecco, ma basta tagliare le tasse. Se lui non fa questo, il resto non può funzionare. Ma basta tagliare, dare 80 euro al mese in più a quelli che guadagnano. No, non si tratta di dare, non puoi tirare fuori i soldi dove non ci sono soldi, devi tagliare la spesa pubblica e dare quei soldi che sono grandi soldi, grandi soldi. Gli inglesi hanno licenziato 500.000 di pubblici dipendenti. Il presidente Hollande francese, nonostante che viene dalla sinistra e tutto detto, lui si sta postando a fare la stessa cosa. Non c'è altra via di uscita. Però mi sembra che con i sindacati sia molto deciso, quasi tipo Blair Renzi. Sì, esatto, deve essere molto deciso, perché si deve liberalizzare il mercato del lavoro. Il fatto che gli italiani, i giovani italiani non lavorano in Italia, perché c'è troppo difficile avere il lavoro quando nessuno può licenziare, il mercato è tutto paralizzato, quindi in Italia non possono diventare i camminieri, quindi vanno in Inghilterra e vanno a pulire i gabinetti a Londra. I giovani laureati italiani lavorano a Londra in occupazioni meniali per il fatto che il mercato italiano è chiuso. Se io ho un ristorante a Milano, a Roma, non posso assumere nessuno perché poi non posso licenziarlo. Il fatto è molto semplice: o si ha un mercato di lavoro flessibile, o si è condannati alla disoccupazione, o si taglia la spesa pubblica, o si è condannati alla disoccupazione. E Renzi è questo che deve affrontare: crescita 1.8, sotto 1.8 addirittura aumenta la disoccupazione. Le grandi ricette del professor Lutwak. Ma ha sentito professor Lutwak parlare del CNEL per caso? Ah, l'ente del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che Renzi ha detto che vuole sopprimere. CNEL, ottima idea, ma sopprimere è, guarda, trovare 500.000 pubblici dipendenti che dovrebbero non essere più a carico per poter tagliare prima di tutto il VAT, la VAT, la tassa sul consumo, per poter tagliare la tassa IVA. Guarda, gli inglesi sono andati da una tragica situazione a disoccupazione totale sotto 7%, l'hanno fatto in 18 mesi, è un esempio per tutti. Hollande l'ha accettato, Renzi deve accettarlo. Bene. Se lui non lo fa questo, tutto il resto che fa non può essere sufficiente, è una questione di numeri. Senta, professore, un'ultima cosa, ma il referendum della Crimea lei lo trova legittimo? Io sì, per esempio, lo trovo legittimo il referendum. Allora, il referendum della Crimea, il risultato, tu puoi trovare il risultato legittimo. Certo. Dire che questa gente vuole essere con la Russia, adesso sono andati con la Russia, ma chi ha investito questo referendum? Beh, Putin. Chi l'ha organizzato? Il problema è che tu hai un intervento di forza e poi lo legittimi con un referendum. Questo crea un po' un problema, perché cosa succede se adesso l'esercito bulgaro sbarca da qualche parte in Italia e fa un referendum? Al limite magari vincono, ma cosa c'entra questo fatto? Col calamari, la legittimità del risultato. Ho capito. E questo è il problema. Il problema è che non si può imbastire un referendum per azione esterna. Va bene, professore, grazie. C'è stata una grave violazione. Il problema per Obama, naturalmente, è che qui si sapeva prima tutto questo. Il piano russo era saputo. Sì. Di mettere le mani sull'Ucraina, e l'amministrazione Obama non ha trovato una maniera efficace per dissuadere, non hanno potuto fare. Lui ha fatto una chiamata di 90 minuti. Sì. E io so, essendo cresciuto a Palermo da bambino, che se tu vuoi dire a qualcuno di non fare qualcosa, non lo chiami per 90 minuti. Basta un minuto e mezzo, diciamo. Basta un minuto e mezzo, dice lei. Basta mezzo minuto, esatto. Adesso lui ha un problema di governo, perché in America il presidente non può essere debole. Va bene, professore. Adesso per lui questo è un problema. Grazie, professore, a presto. Grazie. Vedrà un cambiamento dello stile e tono di questa amministrazione. Grazie, professore, grazie. Salvatore, provincia di Roma. Salvatore? Sì, pronto. Dica. Buonasera Cruciani, buonasera a tutti quanti voi e ai suoi dica, veloce. Allora, io mi volevo un attimo ricollegare al discorso della prostituzione. Non lo farei e non colpevolizzerei tutti gli uomini, perché c'è modo e modo e motivo e motivo. Io a 46 anni mi sono trovato costretto e mi rivolgo soprattutto a quella signora che ha la figlia di 18 anni che qualcuno la guarda e la fa, dice che è carina. Spero che quando uno la guarda non è che sbava, non è che tutti gli uomini sbavano. Premetto che ho tre sorelle, nipoti, una figlia di 25 anni, per cui per me la donna non è un foro, è una persona che va male, ho tantissime amiche. Vabbè, allora? Io sono stato costretto, perché all'età di 46 anni ho avuto dei grossi problemi alla prostata e l'urologo me l'ha messo per iscritto di avere rapporti almeno tre volte a settimana. Ma che c'entra? Tornato a casa ho trovato buio totale, io sono stato costretto. Cioè buio totale in che senso? Che sua moglie non voleva? Va perfetto, come quasi da te, perché poi non è che io sono andato dalle minorenne al coso, ho cercato su internet una signora dell'età mia e la quale mi ha, poi abbiamo preso confidenza, le grandi perché... inchieste della Zanzara. No, è così. Cioè, guarda, Salvatore, purtroppo... la provincia di Roma ci sta raccontando che il medico gli ha prescritto, cioè gli ha detto che è la prossima. Questo periodo, guardi, basta che chieda a un urologo, ti dice che è consigliabile avere, addirittura mi ha spiegato come farlo, perché non era un rapporto sessuale punto e basta, era tipo una ginnastica, cioè tre volte a settimana, tre volte a settimana. Era ammesso per iscritto persino, perché poi parlando con i colleghi mi sono confidato con qualcuno che vedevo, è un collega mio in quello stesso periodo, ma ti parlo di 7 anni fa, anche lui ha avuto un problema del genere, è una dottoressa di un'altra ASL vicina dove che le hanno prescritto a lei? Di avere rapporti sessuali per almeno 2-3 volte a settimana. Per non ammalarsi definitivamente di prostata. No, aspetta, non è, io ho fatto ecografie, c'avevo una... Vabbè, dobbiamo chiudere, torniamo domani, ciao. Una farmacologica, non è ciao, che sto andando. Ciao, ci sentiamo domani. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché se ne dovete annare? E bisogna ve ne annate! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Radio 24. La passione si sente. Stazioni di servizio Costantin. Carburante a prezzi bassi ad ogni ora. Vi ha presentato La Zanzara.